Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it. In primo piano. Buongiorno, buona domenica da Giulia Crivelli. Benvenuti alla nostra rassegna stampa dei quotidiani italiani. Oggi, lo ricordiamo, è anche l'ultima tornata elettorale di questa serie. Si vota per i ballottaggi nei comuni e i seggi sono aperti da poco e appunto con questo poi si concluderà la tornata delle amministrative più referendum di 2 settimane fa. Sui giornali però non ci sono molti articoli su questo, vedremo un unico schema dove si riassumono i comuni dove appunto si è andati al ballottaggio. Il Sole 24 Ore apre su una questione che riguarda tantissime persone, è legata a una delle norme inserite nel decreto legge di agosto, moratoria finita, pronte 9 milioni di cartelle. Il 15 ottobre scade lo stop alla riscossione, ripartono anche i pignoramenti, più ampio il bonus ristorazione, sul 110% il condominio può chiedere a maggioranza il cosiddetto super bonus edilizio. Vi segnalo anche, poi lo vedremo, visto che si parla tanto di svolta verde, l'articolo di Jacopo Giliberto che spiega: energie rinnovabili, la burocrazia blocca i piani di investimento. E poi sulla prima pagina del Sole 24 Ore un intervento del direttore Fabio Tamburini, che è anche il direttore di Radio 24 e di Radiocore, perché dal 6 all'8 ottobre ci sarà questo evento digitale, come si confà a questi tempi, che si chiama Restart ed è fatto in collaborazione con Financial Times ed è appunto Restart, cioè ricominciare, come rilanciare il Made in Italy. Il Corriere della Sera ha sostanzialmente due aperture, una riguarda da una parte il maltempo di cui avete sentito anche nel GR e dall'altra il successo della prima vera messa in funzione del MOSE, le cosiddette paratoie, sono 78 in tutto, che servono a proteggere Venezia dall'acqua alta quando supera una previsione come quella di ieri, che avrebbe dovuto essere di 1,30 m, e in realtà solo pioggia normale a Venezia. Quindi da una parte la foto appunto del Mose e dall'altra quella del ponte sul fiume Sesia crollato ieri a Romagnano in provincia di Novara. Nord, crollano ponti e strade. Poi c'è un'altra apertura, un altro titolo forte in prima pagina che invece riguarda il Covid: Italia contagi record, soldati per i controlli e poi tutto quello che arriva dagli Stati Uniti, che è molto difficile da decifrare. Giallo su Trump, 2 punti, non è fuori pericolo. Perché vi dico difficile da decifrare? Perché anche in vista di questa rassegna stampa e visto il fuso orario, ho fatto un po' di zapping continuo tra quello che veniva detto su CNN e quello che veniva detto su Fox News, che è una televisione, un network di news molto vicino a Donald Trump, e non è facile capire quali sia la verità, perché non c'è molta trasparenza. Basti il fatto, e da qui il titolo del Corriere della Sera, che da una parte c'è stata alle 5 nostre, alle 11 di Washington, una conferenza stampa con il medico personale della Casa Bianca, e che dove si rassicurava dicendo che comunque sì, le prossime 48 ore sono importanti ma il presidente sta bene, e dall'altra sia i reporter di CNN sia quelli di Fox News davano notizia di questo altro bollettino, diciamo non ufficiale ma comunque dato da fonti della Casa Bianca, che invece diceva che i medici sono comunque abbastanza preoccupati. Vedremo appunto se nelle prossime ore ci sarà una maggiore chiarezza. La Repubblica, virus, allarme, contagi, l'esercito per i controlli, quindi titolo molto simile a quello del Corriere della Sera. Giallo sulle condizioni di Trump, decisive le prossime 48 ore. Ma anche in questo caso la foto, in questo caso viene sempre dal Piemonte, ma non dal ponte vicino a Novara, ma da Limone Piemonte, fiume in piena, gravi danni in provincia di Cuneo. Il maltempo devasta il nord-ovest, crollano 2 ponti. con la Repubblica, come ogni domenica in edicola L'Espresso. La copertina, in copertina ci sono il Premier Conte e il Presidente dell'Egitto Al-Sisi, scampagna d'Egitto. In agosto il governo Conte approva in silenzio l'atto finale della vendita di due navi militari ad Al-Sisi. Era stato presentato come un ricco affare, invece ora l'Italia rischia di perdere 140 milioni, un pasticcio che coinvolge la Marina, aziende di Stato e Palazzo Chigi, mentre è sempre più buio su Giulio Regeni. Sapete Giulio Regeni, il ricercatore, era iscritto all'Università di Cambridge e si trovava in Egitto per alcune ricerche, è stato brutalmente assassinato e torturato e su quell'omicidio non c'è ancora verità e in molti pensano che le due cose, cioè rapporti diplomatici e non anche economici tra Italia e Egitto, dovrebbero essere legati ad alcune condizioni sulla verità, che sul fatto che venga finalmente fatta chiarezza sull'omicidio di Giulio Regeni. La Stampa è un titolo a tutta pagina: pioggia e fango devastano il nord-ovest. La foto è la stessa di Repubblica, questa casa travolta dal torrente Vermenagna nel centro di Limone Piemonte. Vi segnalo dalla prima pagina anche un'analisi che poi trovate a pagina 6 della Stampa di Mario Tozzi, il geologo, anche grandissimo divulgatore, noto anche al pubblico televisivo. È colpa dell'uomo, non della natura. Vi leggo le prime righe: colate di fango, frane, smottamenti, alluvioni, ma anche acqua alta a Venezia e mareggiate sulla Liguria sembrano essere diventate ormai la regola, mentre i cittadini e gli amministratori locali non sembrano fare altro che prendersela con la natura o con il destino. Invece dovrebbero prendersela soltanto con loro stessi. Il grande tema del dissesto idrogeologico del nostro paese, ma anche delle opere non messe in sicurezza, come il ponte che appunto è crollato ieri. Il Messaggero titola su Trump: i due giorni decisivi. E poi però la foto, in questo caso è il ponte crollato sul fiume Sesia in provincia di Vercelli, il crollo del ponte dopo la riapertura. Il Giorno, anche qui apertura su Trump: Trump sfida il Covid, voglio uscire. Perché questo titolo? Perché nella conferenza stampa che vi dicevo del medico della Casa Bianca, questo medico ha detto che Trump appunto starebbe così bene da aver chiesto, da aver detto di sentirsi, di poter già uscire. Non c'è registrazione di queste dichiarazioni, non c'è neanche un tweet, quindi questo titolo è un po' basato su un sentito dire, se vogliamo dire così. Però il giorno dice nell'occhiello, il presidente degli Stati Uniti è ancora in ospedale, ha avuto bisogno dell'ossigeno, era in condizioni preoccupanti. Anche qui, se volete riascoltare per farvi un'opinione, quella conferenza stampa, a domanda precisa, ha avuto ossigeno in ospedale? Il medico ha detto di no. Queste sulla somministrazione dell'ossigeno sono indiscrezioni che riguarderebbero la giornata di venerdì, quando Trump era ancora alla Casa Bianca prima di salire con le sue gambe sull'elicottero Marine One per essere portato nel vicino ospedale Walter Reed che si trova nel Maryland, perché sapete che Washington è un miglio quadrato circondato, non è uno stato, è il District of Columbia, ed è circondato da alcuni stati tra i quali il Maryland, dove si trova questo ospedale. La foto scelta dal Giorno è la stessa di Repubblica e Corriere, il disastro, il maltempo flagella al nord Italia, distruzione, morti e dispersi, prima volta del Mose a Venezia, piazza San Marco resta asciutta. Il Giornale: i giudici stanno con Salvini, qui il tema è quello dell'udienza che c'è stata ieri a Catania, l'accusa non regge, svolta nel caso Gregoretti, il PM chiede l'archiviazione per il leghista, Conte e il governo chiamati a testimoniare. Avete sentito tutto nel GR e seguiremo appunto l'evolversi di questa situazione, le prossime udienze dovrebbero essere in novembre. Il Fatto Quotidiano: quattro gatti per Salvini, l'evoluzione della destra, e questa è la lettura che il Fatto Quotidiano fa di quello che è successo ieri, l'ennesimo flop, sognava una piazza antigiudici tipo B punto, che sapete è il modo con il quale il Fatto Quotidiano parla di Berlusconi, ma dopo l'udienza niente folla né martirio, il PM chiede di archiviare. Avvenire, siamo tutti fratelli, la notizia della nuova enciclica di Papa Francesco è su tutti i giornali, ma ovviamente per l'Avvenire è l'apertura. Il Papa ha firmato ad Assisi la sua nuova enciclica che sarà diffusa stamattina. Al centro i diritti di ogni essere umano, la pace, i migranti e la buona politica. In prima pagina anche le altre due notizie, quella del maltempo, il Piemonte va sott'acqua, il Mose salva Venezia. E poi gli aggiornamenti sul Covid, la curva risale e poi anche il legame, lo avete sentito anche nel GR, con il campionato di calcio. Nel calcio primi stop. Libero, figuraccia del governo, i PM assolvere Salvini, il GUP di Catania chiamerà, abbiamo detto, a testimoniare i tre altri ministri dell'allora governo, il Conte 1 coinvolti, cioè il Premier Conte, il ministro Luigi Di Maio e la ministra Lamorgese sulla gestione migranti. Movimento 5 Stelle e idem sognavano di far fuori Matteo, invece finiranno alla gogna loro. Che autogol, puntini sospensivi. E l'editoriale del direttore di Libero, Vittorio Feltri, chi ha votato contro il capitano si vergogni. La verità, Salvini, processo boomerang alla sbarra Conte e Di Maio. La prima udienza sul caso Gregoretti, il leghista difeso da Giulia Bongiorno, che nel primo governo Conte era anche ministro della pubblica amministrazione, chiede che venga sentita la Lamorgese, che è l'attuale ministro degli interni. Sui barconi ha fatto le stesse scelte, il GUP dice sì e convoca il premier e tre ministri di allora. Saranno costretti ad ammettere di aver condiviso tutto. La foto però è quella del disastro in Piemonte ed Emilia, morti dispersi e ponti crollati. Il manifesto, curva pericolosa, i contagi da Covid arrivano a 2843, il picco più alto dal 24 aprile. E poi il titolo anche sull'alluvione, alluvione in Piemonte è catastrofe. Vi segnalo, visto che se ne è parlato anche nel GR, questo articolo di Alberto Negri, che sicuramente gli ascoltatori di Radio 24 ricorderanno come voce di Radio 24 e poi perché per molti anni ha lavorato come inviato al Sole 24 Ore, la nuova guerra del sultano della NATO, quella nel Nagorno-Karabakh. E ultimissima prima pagina, prima di lasciarci un attimo per una pausa in cui sentiremo anche gli aggiornamenti sul meteo, domani il nuovo quotidiano edito da Carlo De Benedetti, che poi, come sapete, nei piani non sarà più l'editore, l'editore sarà una fondazione. Diretto da Stefano Feltri, che firma anche l'editoriale. La realtà alla fine prevale sempre sugli slogan, la lezione per Trump e Salvini, questo è il tema naturalmente legato al Covid, e questo quotidiano che è in edicola dal 14 settembre, quindi a meno di un mese di vita, l'apertura, contagi fuori controllo, inizia la marcia verso il nuovo lockdown. Questa è l'ipotesi di domani. Noi ci lasciamo un attimo, ci ritroviamo tra qualche minuto. Intimissimi uomo, boxer a 7,90€, nei negozi e online. Vi presenta In Primo Piano. Ancora buongiorno da Giulia Crivelli, abbiamo visto tutte le prime pagine, ora andiamo alle pagine interne, torniamo sul Sole 24 Ore. Vi dicevo, questa inchiesta di Jacopo Giliberto, pagina 11 del Sole 24 Ore, rinnovabili, investimenti bloccati dalla pubblica amministrazione. Le nuove installazioni di fotovoltaico, eolico e idroelettrico sono in caduta del 39% rispetto al 2019. L'appello delle imprese, il tema della semplificazione degli iter autorizzativi va affrontato subito. E poi per la serie A tu per tu, i colloqui con personaggi della cultura, della società, della ricerca, questa settimana Carlo Marroni, che è il nostro vaticanista, ha incontrato padre Augusto Zampini Davis. E il titolo dell'incontro è: questa crisi la pagano i poveri, dobbiamo cambiare il modello. Questo sacerdote è passato nella Banca Centrale Argentina, nel mondo dell'alta finanza, è oggi uno degli uomini di punta del Dicastero Vaticano del Welfare e qui racconta anche la sua esperienza a fianco del Papa. E poi la consueta pagina dedicata a sport e business, questa settimana non poteva che essere sul Giro d'Italia, che è partito in Sicilia, un business con 52 partner. La corsa tricolore, rinviata la scorsa primavera a causa della pandemia, è scattata ieri dalla Sicilia e non più dall'Ungheria come era stato inizialmente previsto, e attraverserà la penisola in 21 tappe con passerella finale a Milano il 25 ottobre. la sezione Lifestyle che esce la domenica. Questa settimana la prima pagina è un lungo articolo di Federico De Cesare Viola sulla vendemmia, o meglio sull'enoturismo. Vendemmia che piacere, da Gorgona al Vesuvio. Un weekend tra filari, ospiti di wine resort e giardini vigneto, e non mancano i turisti stranieri. Mentre dal Corriere della Sera vi segnalo, abbiamo detto del Mose, vi segnalo in particolare l'articolo di Gian Antonio Stella, che è veneto, un grandissimo giornalista, quindi proprio racconta la sua emozione. Viva le dighe gialle, Venezia batte l'alta marea, ma ci sono voluti 40 anni, non dimentichiamocelo mai. E poi le due foto a confronto, quella di ieri con i turisti, certo protetti da impermeabili di ogni genere, però potevano camminare tranquillamente, mentre per esempio il 22 dicembre del 2019, quando Piazza San Marco fu invasa dall'acqua alta e si vedono appunto alcuni militari con l'acqua fino alle ginocchia. Vi segnalo, visto che ieri era il 3 di ottobre, anniversario ufficiale della riunificazione della Germania, ricorderete tutti 9 novembre 1989, crollo del muro di Berlino, però poi ci vollero alcuni mesi per ufficializzare tutti i dettagli della riunificazione della Germania, e queste due pagine molto belle, con due articoli del corrispondente da Berlino del Corriere della Sera, Paolo Valentini, 30 anni dopo la riunificazione, questa è la Germania migliore. E poi un'intervista a Annalena Baerbock, che è la leader dei Verdi tedeschi, ma per molti a Est fu uno schiaffo, c'è ancora tanto da fare. Poi vi segnalo dal Corriere della Sera un intervento di Vieri Ceriani e Mario Monti, che è il primo sottosegretario all'economia dal 2011 al 2013 e il secondo Mario Monti, naturalmente Presidente del Consiglio. La riforma fiscale sia organica, ma non parta da zero. E secondo, appunto, per quanto riguarda i conti pubblici strettamente legati alla riforma fiscale, ricordare i percorsi avviati serve ad assumere una visione ampia e prospettica. Dalla Repubblica vi segnalo le due pagine su quello che sta succedendo a Washington, ma come potete immaginare ci sono approfondimenti su tutti i giornali. Questo ve lo segnalo perché appunto mi sembra la cronaca più puntuale di questo mistero su Trump. Per i medici sta bene, ma il capo staff dice a 48 ore cruciali, e c'è la foto di quella conferenza stampa che vi dicevo, che è stata abbastanza impressionante. Al centro Sean Conley, davanti a questo ospedale Walter Reed di Bethesda, e dietro di lui lo staff di medici. E un approfondimento di Federico Rampini sulla reazione che sta avendo Joe Biden e tutto il suo staff per quello che sta succedendo a Donald Trump. Spot sospesi, niente ironie, le contromosse dei democratici dopo il ricovero del presidente. Vi ricordo che sono stati annullati il secondo e il terzo faccia a faccia televisivi previsti per il 15 e il 22 di ottobre. Resta invece per ora confermato quello tra i due vicepresidenti, Mike Pence, tra l'attuale vicepresidente e il candidato alla vicepresidenza, che è Kamala Harris, che dovrebbe essere giovedì negli Stati Uniti. Vi segnalo sempre da Repubblica un approfondimento sul Medio Oriente, svolta nella disputa sul gas in mare, Libano e Israele trattano sui confini. Nuovo successo dell'amministrazione statunitense dopo 3 anni di mediazione, trattativa al via il 14 ottobre, e il Beirut dice l'intesa ci aiuterebbe a pagare i debiti. Sapete che il Libano è in crisi economica, così come sono in profondo rosso i conti di Stato. Due settimane fa gli accordi, cosiddetti accordi di Abramo, che ricorderete, hanno ristabilito i rapporti diplomatici tra Emirati Arabi Uniti e Israele, e tra Bahrain e Israele. E qui l'intervento, l'analisi è di Robert Kaplan, le nuove alleanze che ridisegnano il Medio Oriente. Dalla stampa vi segnalo, sempre per quanto riguarda la vicenda Trump, per Trump cruciali le prossime 48 ore. Qui è particolarmente interessante la foto ingigantita di questo L'avete sentito anche nel GR, si sta cercando di fare tracing, che vuol dire tracciamento, è un problema negli Stati Uniti più che in altri paesi, perché non c'è un'app di tracciamento, quindi bisogna farlo, diciamo, a mano, a memoria, cioè bisogna che chi è risultato positivo ricordi, scriva e comunichi tutte le persone con le quali è entrata in contatto. In questa foto si vede l'immagine di quella cerimonia di sabato scorso nel Giardino delle Rose, in cui Donald Trump, come aveva anticipato nei giorni precedenti, aveva annunciato la sua nomina della giudice Amy Coney Barrett alla Corte Suprema, che deve essere poi ratificata dal Senato. E in questa foto vengono evidenziate, anzitutto sono tutti senza mascherina, sono tutti seduti vicini, partecipanti a questa cerimonia, no? In realtà c'è una persona con la mascherina, e tutti gli altri senza, appunto. E adesso, tra l'altro, alcune di queste persone sono già risultate positive, per altre naturalmente si stanno facendo i tamponi e i test. Dal Messaggero la foto della stessa occasione, ma da un'angolazione diversa, dove si vede nella foto della stampa si vedevano le prime file dei partecipanti a questa cerimonia. In questa foto del Messaggero si vede tutte le persone che hanno partecipato, e ripeto, quelli con la mascherina si contano sulle dita di una mano. Ecco chi sono e come erano seduti i partecipanti all'evento, poi risultati positivi. E qui c'è un'altra notizia che è circolata molto anche nelle dirette non stop, in realtà, sulla questione, che ci sono sui network americani. Chris Wallace, che era il moderatore, giornalista di Fox News, moderatore di quel dibattito che c'è stato martedì sera negli Stati Uniti, il primo e ultimo a questo punto, tra Donald Trump e Joe Biden, e Chris Wallace ha detto, lui, Donald Trump e i suoi uomini, perché naturalmente era accompagnato da parte del suo staff, non si sono sottoposti ai test. Poi una notizia curiosa dal Messaggero: le nozze senza burocrazia, Gibilterra come Las Vegas. Sapete che Las Vegas è la città del Nevada, famosa non soltanto per i casinò, ma anche perché è molto facile sposarsi, burocrazia quasi azzerata. E ora si scopre, nel piccolo territorio britannico, gli sposi arrivano da tutto il mondo, Italia compresa. L'aereo atterra in città, le regole Covid sono lasche, qui si sposarono, ricorda il Messaggero, John Lennon e Yoko Ono. E poi nella stessa pagina un'altra notizia molto curiosa: uno studio italiano, scoperti neuroni integri nel cervello vetrificato di una vittima di Pompei. E ricordiamo che Pompei, appunto, è la città che fu azzerata, ricoperta dall'eruzione dell'Etna, ed era il 79 d.C., quindi sono quasi 2000 anni, e questi neuroni sarebbero ancora integri. Lo studio italiano punta a ricostruire a ritroso le varie fasi dell'eruzione. Lo scopo è controllare il rischio vulcanico. Ci lasciamo un attimo per un aggiornamento sulla viabilità. Intimissimi uomo, boxer a 7,90€, nei negozi e online. Vi presenta In Primo Piano. Ancora buongiorno da Giulia Crivelli, siamo all'ultima parte della nostra rassegna, ancora qualche segnalazione dai quotidiani e poi passiamo ai supplementi domenicali. Dal Giornale vi segnalo la consueta pagina sugli animali e un interessante articolo di Oscar Grazioli, che racconta: i diritti degli animali hanno solo 200 anni. La storia dell'American Society for the Prevention of Cruelty, che letteralmente è la prevenzione della crudeltà sugli animali, fu il ricco newyorkese Henry Berg a fondare la società e a guidare la prima ambulanza. E poi dal Fatto Quotidiano vi segnalo un'intervista a Enzo Amendola, che è il ministro degli affari europei, esponente del PD, che dice, parla soprattutto del recovery plan che dobbiamo mettere a punto per avere i soldi del recovery fund. Sapete, se ne parla molto perché pare che i tempi non saranno così veloci, comunque non arriveranno questi fondi prima della metà del prossimo anno. Mettiamo i soldi su 100 progetti, non si blocchi tutto per i veti dell'Unione Europea. E poi, visto che abbiamo parlato di tracing, due pagine dedicate a Immuni, operazione Immuni, la app è da rianimare. Scaricare l'app Immuni può aiutare tutti noi a contrastare l'epidemia, lo ha ripetuto il ministro della Salute, Speranza. Vi segnalo sulla vicenda Trump anche una pagina dell'Avvenire, perché qui c'è una grafica dove si ripercorrono le varie frasi di Donald Trump sul coronavirus, perché sapete che negazionista no, non mi sembra la parola giusta, però sicuramente Trump ha avuto un atteggiamento un po' ondivago sulle misure da adottare, che le persone normali possono adottare, per, a partire naturalmente dalla mascherina, per contenere il contagio, e soprattutto ha più volte mostrato di non essere d'accordo con i suoi esperti o addirittura di smentirli. E su questo tema l'ultima segnalazione che ci tengo a farvi: da domani, appunto, il quotidiano, questo nuovo quotidiano in edicola dal 14 settembre, un'intervista di Massimo Teodori, americanista, al quale domani ha chiesto un intervento. Questo intervento lo trovate a pagina 3 del domani. L'egomania del presidente è un pericolo per gli Stati Uniti. Ma come vi dicevo, passiamo ai supplementi domenicali. E dalla domenica, cominciamo come sempre dalla domenica del Sole 24 Ore e dal breviario di Gianfranco Ravasi, che questa settimana si intitola Fede, e la citazione è questa: vivo in un tempo nel quale gli uomini perdono la fede per la stessa ragione per cui i loro genitori l'avevano, non sanno perché. Misterioso come la gamma dei nomi diversi da lui adottati, gli eteronimi con cui si presentava furono più di una ventina, lo scrittore portoghese Fernando Pessoa ha lasciato anche alcune considerazioni religiose, spesso contraddittorie tra loro e persino distanti dalla sua visione generale dell'esistenza. Quella che abbiamo citato, folgorante nella sua capacità di individuare una verità aspra, identifica una sorta di malattia che non è solo della religione, ma anche della società, e che reca nome di indifferenza. Non si vuole mai scoprire in profondità le ragioni di una scelta di vita, di una strada imboccata, di una deriva a cui ci si lascia trascinare come un ramo secco lungo il flusso di un fiume. Credere o non credere può essere per molti solo un'etichetta ricevuta dalla nascita o dalle circostanze, mai una decisione personale, cosciente e coerente. Talora è un'intera esistenza che viene condotta senza sapere il perché ultimo di tanti atti, senza fermarsi mai a guardare nell'intimo dell'anima e della coscienza. È quella superficialità che, come dice la parola, fa galleggiare senza mai scoprire chi o che cosa ci guida. Ma l'articolo della cover vero e proprio è una lunga recensione di Giulio Busi a questo libro che è in uscita per l'edizione Tre Lune, che si intitola Lettere 1494-1519, le lettere di Lucrezia Borgia. Nelle sue missive la figlia di Papa Borgia non appare come la femme fatale della leggenda, ma come abile esperta della vita di corte. E sempre dal domenicale vi segnalo una recensione di Paolo Legrenzi a due libri. Uno si chiama Neuropsicologia delle demenze, l'ha pubblicato Il Mulino, e l'altro Il cervello elettrico, le sfide della neuromodulazione, l'ha pubblicato Raffaello Cortina. Il titolo della recensione è Se si rompe il cervello. Due libri analizzano da una parte i processi degenerativi legati alla vecchiaia, dall'altra la neuromodulazione, che è l'applicazione non invasiva di deboli correnti, cioè l'applicazione non invasiva di deboli correnti elettriche. E poi un ricordo di Gabriele Neri di Vico Magistretti, che nasceva, grande architetto e designer, nasceva 100 anni fa a Milano, uno dei protagonisti dell'architettura e del design italiano del dopoguerra. Una brillante carriera segnata da costanti dualismi, edifici e oggetti, progetti per l'élite e progetti per le masse. E un'altra recensione a un libro che mi sembra molto interessante, l'ha tradotto il saggiatore di Claudia Hammond, si intitola L'arte di riposare, come trovare sollievo nel mondo contemporaneo. La recensione di Paolo Albani, intitolata Impegnarsi a non fare niente. Per quanto risulti utile alla mente e al corpo, non è un'arte facile da coltivare. Se lo trascorriamo ad esempio tra lettura, TV e sesso, siamo sempre in notevole attività. E poi questo in realtà è un articolo pubblicato ieri che mi ha segnalato, onore appunto al segnalatore, mio papà. Siamo tutti appassionati di gatti in famiglia. Questo articolo l'ha scritto Piero Martin sulla Stampa, il miau della fisica, perché i gatti cadono sempre in piedi, che è anche il titolo di un libro uscito recentemente, ma qui proprio si analizza un po' i rapporti anche così un po' fantasiosi tra i gatti, chi li ha, i fisici che ne avevano. Naturalmente il più famoso è Schrödinger, che impiegò il gatto nel suo celebre esperimento mentale sul principio di indeterminazione, ma sono anche tanti altri e l'autore ripercorre questa presenza del felino, che è uno degli animali, il piccolo felino, il gatto, è uno degli animali più citato dagli scienziati. E c'è anche un intervento di Alberto Mattioli, che ha scritto anche un libro intitolato Il Gattolico, Chiesa Cattolica, la numero uno nel mondo. Poi vi segnalo invece la lettura, che è il settimanale culturale del Corriere, come sempre la copertina affidata a un artista. Questa settimana è Oren Eliav, e visto che abbiamo parlato di America e ricollegandomi anche a quello che dice Gianfranco Ravasi, cioè di cercare di non fermarsi mai alla superficialità, diciamo che la superficie in questo caso sono le notizie sulla positività di Donald Trump, ma ci sono 7 pagine della lettura dedicate proprio a quello che sta succedendo negli Stati Uniti, le 9 anime degli Stati disuniti. Il 3 novembre si svolgeranno le elezioni presidenziali, che si annunciano tra le più divisive degli ultimi decenni. A un mese dal voto, la lettura ha chiesto a uno storico una ricognizione, Tiziano Bonazzi, una ricognizione delle fratture politiche e ideologiche della società. Viene fuori un quadro di forte radicalizzazione. Mentre Robinson si dedica il supplemento domenicale, il supplemento settimanale della Repubblica dedicato alla cultura, che è in edicola sabato ma poi resta in edicola per la settimana successiva, la prova del Nobel. Si decide il premio più importante per la letteratura e Robinson dice quali sono i 10 scrittori per i quali fa il tifo, per così dire. Da Robinson vi segnalo una bella recensione di Michela Marzano a questo libro La notte ha la mia voce, che è il nuovo libro di Alessandra Sarchi. Tra l'altro ne ha parlato qui al cacciatore di libri anche la cacciatrice di libri Alessandra Tedesco. Non solo maternità, una madre, una figlia, l'anoressia, un segreto del passato dopo La notte ha la mia voce, perché questo nuovo libro si chiama Il dono di Antonia. Ultimissima segnalazione, un racconto di Giuseppe Festa, Balla con gli orsi, elogio di un grande mammifero italiano, e ci sono anche libri in uscita per bambini ma non solo su questo bellissimo animale. Era l'ultima segnalazione per oggi, un grazie a Peter Bescapè in regia, ancora una buona domenica da Giulia Crivelli. Per le aziende professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it.